È evidente che vi piace sentire questa voce robotica orrenda, ecco perché mi hanno assunto a tempo pieno per essere la voce narrante di questo podcast. Buon ascolto. Ciao a tutti! Siamo dopo un bel po' di tempo di assenza, siamo tornati con una nuova puntata di Giochi sul nostro podcast. Oggi siamo in questo momento in una versione, in una terna particolare, siamo io, Pierluca Zizzi e Alan D'Amico. Ok, Alan è sempre l'ultimo, va bene. Perché io sono galante, cioè, prima gli altri. Ah, okay. Grazie, grazie. Va bene. Allora, cominciamo un attimo con parlando di Pierluca che ci parla delle novità che sono in arrivo da parte della What's Your Game per SN2 2015. Allora, in questa tematica diciamo che ha quello che possiamo tradurre brutalmente come interesse vestito. Sì, sì, sì, ma certo, adesso no. Un mercenario prezzolato in questo momento da me stesso, però. Esatto, perché uno dei titoli è suo, quindi no, in realtà mio... a noi non ce ne importava più di tanto, però ho detto, posso parlare del mio titolo, per favore. No, non è vero, che non ho nient'altro da dirvi, se non poche altre cose meno interessanti. Invece quello è interessantissimo, vero? Beh, ma è l'unica cosa che posso dirvi come vera novità sicura. Guarda, no, in realtà ci sarà... Il gioco si chiama Signorie, ve lo dico io, così ti tolgo già qualcosa da dire. Ah, e ha un tabellone, perché cioè l'unica cosa che ho a disposizione è un'immagine, una foto che avete gentilmente messo a disposizione su BGG. Vedo che c'è l'Italia, ci sono delle caselline, una più o meno su Pisa o Firenze. Vai avanti te, vai, non voglio darti. Allora, intanto diamo ad Andrea Chiarvesio quel che è di Andrea Chiarvesio, il gioco è anche suo. Quindi volevo fare qualche battuta cattiva, però. Non farla. Quindi ci è stato molto molto pesantemente cambiato da What's Your Game, quindi sostanzialmente in questi giorni stiamo vedendo i cambiamenti rispetto alla versione berlinese. Ma l'ultima volta che dovevi pubblicare qualcosa con loro non mi avevi detto, no, con loro siccome cambiano troppo non pubblico più. No, beh, non avrò detto questa frase. No, diciamo, va bene, che... ti prendo in giro, dai. No. Allora, sì, beh, effettivamente cambiano, ma cambiano in senso molto positivo, ovvio, spesso. Poi, sì. No, spesso, non sempre. Va bene, è il vizio negativo, se proprio vogliamo dirlo, così facciamo contenti un po' tutti, è che chiaramente loro, vendendo più in Germania, cambiano in maniera assolutamente tedeschina e a me estremamente fastidiosa. Okay. Perché detto questo, da lì arrivano gli sghei e quindi... Esatto. Leghiamo il cane dove vuole il padrone. Con buona pace dei romantici, delle repole. Prometto che non ti prendo più in giro per questo quell'aspetto lì. Che sarei, ma no, ma va bene, va benissimo. Comunque, vai. Signoria è un gioco che secondo me ha delle meccaniche molto interessanti, per il quale... si è interessato l'editore, nel senso che noi gli avevamo fatto vedere, io in particolare, un gioco che utilizzava dadi di 6 colori. A ogni colore corrispondeva un concetto di gioco, un concetto di un gioco che era di civilizzazione. Okay. Un colore è stato arrancato via così, è sparito nello spazio-tempo. Sono diventati 5, vedo. Sono diventati 5, sì. Esatto, sono diventati 5 colori. Che una volta presi dal centro del tavolo, non il colore ma il singolo dado di quel colore con quel risultato, vengono assegnati alle varie azioni. Quindi questa cosa è nuova, mai vista. No, non è particolarmente originale adesso, ma è interessante il fatto che c'è una soglia di attivazione per ogni colore. E ogni colore ha un suo ambito di applicazione che si interseca con gli altri secondo altre azioni. Quindi in realtà secondo me questa interazione, che è interessante, la tempistica di presa dei dadi, che è molto molto diciamo crea strategia nel gioco e crea anche tattica. Quindi non è banale, anzi, secondo me piacerà molto agli appassionati. Però, oltre a fare pubblicità, non ci hai detto una cippa-lippa di come funziona. Allora, intanto parliamo due cose sull'ambientazione. Lo so che non gliene frega niente a nessuno, tranne sì, a me. Ma questo è finito, aspetta, ma quando uscirà questo gioco? Essen. Ok, no, perché credevo che, visto che, non so, hai appena firmato, arrivava tipo tra un anno. No, abbiamo firmato un anno e mezzo fa, figurati. Ah, ottimo. Lui se l'ha inventato 4 anni e mezzo fa. Sì, questo... No, questo non ha... È stato abbastanza... Una gestazione veloce, devo dire, per fortuna. Vai. Comunque, siamo nel periodo delle signorie, 1500 circa, nell'Italia centro-occidentale, dell'epoca, insomma, degli Este, Colonna, Sforza, sì. Quelle famiglie. La grandi. Gente là, dai. Okay. Esatto. Nel gioco ogni giocatore contribuisce, diciamo così, a mettere un dado per ognuno dei 5 colori, quindi se siamo in 3 giocatori ci saranno 15 dadi di 3 colori diversi. Si tirano al centro, i dadi non appartengono a nessuno, sono il primo di turno, prendo un dado, ma come detto prima, il maledetto dado determina quello che io farò, perché se prendo il dado giallo sono più verso le finanze, se prendo il dado viola faccio sposare i miei figli, ebbene sì, ci sono dei matrimoni, poi vi spiego un po' meglio, il dado blu li faccio filiare, e tutti i dadi, quasi tutti, contribuiscono a creare edifici, no, soprattutto il dado verde crea edifici a dire il vero, e gli altri dadi contribuiscono a farmi fare carriera. Allora, vi nascono dei figli e li dovete far sposare, questo anche non è... I figli sono gli ometti che vediamo sul tabellone. Sì, esatto, ma si distingue per generi, quindi ci sono le figlie femmine che non possono avere incarichi ufficiali, sono i tondini? sono i cilindri, esatto, non ce ne abbiano le tantissime spero che nella versione definitiva ci sarà qualcosa di più femminile di un tondo. Penso anch'io, non ti so dire, credo di sì. Vabbè, almeno un adesivo sopra, ok, va bene. E quindi non osiamo pensare con che cosa ci sia sull'adesivo. Comunque, queste dolci pulzelle non possono riempire i 3 incarichi ufficiali, che sono chiaramente, vista l'epoca, quello militare, quello di governo e quello religioso. Invece i nostri pargoli figliuoli possiamo non solo fargli ammogliare, però possiamo fargli fare carriera, che sono la track che vedrete un giorno nella plancia principale. Però, diciamo, adesso richiamandoti alla sintesi, perché il mio compito in queste occasioni è quello di... Se no faresti solo quello. Tom, ti chiedo, siamo ai dadi che li utilizzi, a seconda del colore, per fare diversi tipi di azione. Ok. Sì. Indy, che succede? Che il dado viene messo sulla plancia personale della fazione e fa una cosa. A seconda della profondità con la quale si è sviluppato quel colore prima, fa più cose. Quindi, che ne so, il dado viola mi farebbe sposare un mio figlio, oppure far carriera come per il governo. Ma se ho sviluppato in profondità i poteri di quella colonna lì che ha a che fare col viola, ebbene mi farà sposare di più, mi farà fare più carriera, mi farà fare più azioni, insomma. Quindi c'è una progettualità molto precisa. Gli edifici intervengono a loro volta, vedo che c'è una platea di edifici tipo 7 fra i quali scegliere. Sì, sono 5 tipi di edifici che contribuiscono alla ricchezza, al fatto che tu puoi fare punti a seconda dei tipi di edifici che hai, ti fanno fare carriera in più posti a seconda del tipo di edificio, insomma è contestualizzato, ecco, più o meno l'edificio. Niente, questo è il concetto generale, non mi voglio allungare di più, insomma... Bravo. Diventa pubblicità spudorata. Non ci tedi oltre, scherzo. No. Ma fai anche un altro gioco, anche Simurgh, vedo. Oppure sì, Simurgh, di cui non ho notizie da un mese e mezzo, devo dire. Che non è un bel segno. Ma no, in realtà secondo me, questo possiamo dirlo a chi ci ascolta. Preoccupato, ho detto al buon Andrei Novak, diciamo coordinatore della sua casa editrice, che è principale autore della sua casa editrice, gli ho detto: senti, ma come siamo messi come grafica, come tutte le scelte finali sulle regole, il tuning? E lui ha detto: senti, visto che è troppo complesso, delegami tutte le scelte e poi ti faccio vedere cosa succede dalle parti di fine giugno. Buona fortuna. Ok, fine giugno è passato, siamo inizio luglio, sto aspettando che mi facciano vedere insomma, quello che hanno definitivamente fatto, ma il gioco è quello lì che io conosco, ecco, quindi in realtà sono in grado di dirvi. Salvo quella decina di pagine di regole. Ma no, non credo, non credo. Diciamo che loro hanno ricevuto sufficienti bastonate per vari errori di bilanciamento dei loro giochi, credo che adesso stiano molto attenti. Testing sugli ultimi titoli che sono usciti, ma proprio appena percettibili. Ti sento male, ti sento male. Sono appena percettibili errori di playtesting. Sì, esatto. Di playtesting sui loro ultimi, tutti quelli che mi vengono in mente titoli. E tra l'altro ci ho giocato anch'io i loro ultimi e devo dire che tra la noia oppure il gioco solo io fino a quando non tocca a me e tutti gli altri si addormentano, brutte cose, non mi hanno fatto impazzire. Poi per carità, ti dico, adesso spezzo la lancia perché non voglio essere solo versione yogurt, comunque qualcuno mi ha parlato anche bene di cose loro. Nel senso che quando poi ti metti a parlare con un gamer, cioè non ti sto dicendo con quello che ti dice mi piace il disegno e basta, tipo il nostro Alan che si concentra sull'aspetto grafico. Ma quindi, dopo il dato del disegno, dopo 3 minuti se ne dimenticano, guardano solo le meccaniche. Eh sì, è quello il problema di alcuni titoli, sì. E comunque, dico, qualcuno ha parlato bene, per esempio Progress. Per me è stata una grossa delusione, ma c'è un altro amico che mi ha detto che l'ha comprato, l'hanno giocato in gruppo, è piaciuto così tanto che uno di loro ne ha comprato la seconda copia. Fantastico, mi chiedo cosa gli sia piaciuto del gioco, vorrei proprio peccato per me che non me l'ha detto prima di comprarla, gli davo volentieri la mia, però effettivamente, cioè, sono giochi che promettevano molto, cioè la NSKN, la cosa che ha avuto negli ultimi titoli è che ha proposto dei titoli che erano interessanti, hanno creato dell'hype per varie idee che proponevano, e poi però questo hype non ha fatto seguito un divertimento effettivo, cioè ti aspettavi tanto, però poi ecco tutto lì. Spero che non sia anch'io. Per il tuo titolo non ci sarà questo problema, perché io non ce l'ho tutto questo hype. Forse ci hanno rinunciato, ho detto vabbè, proviamoci così. Come dicevo varie volte, il mio titolo ha un'idea forte, Simurgh ha un'idea forte che ormai possiamo dirlo, ma l'abbiamo già accennato altre volte, che è quello del piazzamento di nuove plancette di gioco che cambiano l'esperienza di gioco di non solo di turno in turno, di ogni volta che tocca un giocatore può aggiungere una plancia che va bene per tutti gli altri giocatori, no? Oltre che per se stesso. Quindi un tabellone modulare. Si aggiungono parti di tabellone. Incide sulle regole di gioco, in sostanza. Esatto. Okay. Questo io ho fatto tutto il gioco intorno a quest'idea. Appena l'ha visto a Norimberga di 3 anni fa, lui mi ha detto bellissima, assolutamente voglio rigiocarci. L'abbiamo fatto e lui mi ha fatto subito il contratto, perché intorno a questo vive il gioco, completamente intorno a questo. Guarda, e penso che sia una novità. Sta nella loro, cioè, nel concetto suo di editore. Come ti ho detto, il bello è che i suoi titoli, la cosa più interessante è che hanno un qualcosa da dire, ok? Cioè, certo. Sto dicendolo positivamente. Sì. Io spero veramente che, cioè, anche su questa idea che detta così è carina, cioè, ti dà la voglia di vedere com'è, spero che ci faccia anche un buon lavoro, perché da quello che mi dici la parte finale la faranno loro, ecco, tutto lì. Beh sì, il tuning finale sì, e di grafica non ho visto niente, io mi sono raccomandato, qui interessa ad Alan poi questa cosa che sto dicendo, mi sono raccomandato tantissimo per la grafica. Leggo l'artista, Franco Rivolli. Ma quello solo della copertina. La copertina. Franco Rivolli, che è un autore italiano molto bravo di Venezia, e ha finito il suo lavoro, quindi... Basta, ok. Esatto. Che è la copertina che vedete, sostanzialmente, che a me, a molti non ha fatto impazzire, a me è piaciuta moltissimo. Chiediamo a questo punto ad Alan se la sta vedendo in questo momento. Cosa sto approfittando, dove la posso vedere? Allora, Simurgh GH su Board Game Geek, che dovresti vedere un picco sul quale c'è il drago, c'è un drago. Picato un drago che è cavalcato dal classico Cavaliere di Draghi. Sì, direi di sì. Il gioco era sui dinosauri, è stato trasformato completamente in un gioco solo sulle razze di Draghi, quindi ogni giocatore può controllare e sviluppare, anche questa è una buona idea secondo me del gioco, pur non originalissima, più razze di Draghi, quindi voi avete i draghi da guerra, i draghi marini per dirne uno, i draghi domestici, E di ogni razza di drago potete mettere i vostri bravi cubetti per sviluppare i poteri, ecco, sostanzialmente. Che altri razzi in Dragon Train 1 2. Fammi sì, lo spelling, sì. Scusami, che così tanto Board Game Geek non c'ha il correttore come Google. Allora se le prendi lo prendi, so, sennò... se sei rigoroso. No, ma allora, vai sui designer e metti zizi. Sì, direi ah, che giù, che stupido. Essere. Aspetta, va a vedere nella hotlist, di solito lui è sempre nella hot test. Allora vado a vedere. Certo. Come certi siti che non possiamo nominare. Allora, vediamo se ti posso aiutare. Comunque Simurg è tutto, è solo la H finale, se ricordo bene. Simurg, così come... Vabbè, intanto mentre il nostro buon Alan cerca, io cerco certo. di coinvolgerlo ancora di più, perché mi ha accennato poco fa a un tema che secondo lui sta veramente colpendo un sacco di gente su internet, perché è oggetto di una grande discussione. Mi ha detto, non sì. te ne parlo adesso, perché così te lo dico subito, te lo dico dopo, mentre registriamo la puntata. Allora, adesso esatto, sono qua, esatto. che sono curioso di sentirlo un po' parlare. Allora, no, semplicemente quello che è vero è che parliamo di giochi da tavolo, però comunque noi viviamo tutto, a tutto tondo, il mondo del gioco in generale. Diciamo che non tocchiamo molto spesso i videogiochi, perché ne sappiamo veramente poco, almeno io in primis. Però quello, come ormai la gente mi conosce, sono un gran appassionato di Warhammer, o diciamo di tutti i prodotti Game Workshop. Oh, e questo ci fa onore. Cos'è successo? È successo una cosa molto, molto epocale della Game Workshop. Due settimane fa, mi sa che, sì, due settimane fa, i primi rumors e poi questa settimana proprio la dichiarazione, che in realtà Warhammer Fantasy Battle, come lo conoscevamo, è completamente morto. Cioè, non però... esiste più come brand della Game Workshop. È successo che nell'ultimo anno, hanno fatto una specie di chiusura della storia. Non so se qualcuno magari accenna in questo mondo, diciamo, fantasy, che si chiama il vecchio mondo, è sempre stato minacciato dal caos, che in teoria verrebbe dai poli. Questi normanni con demoni che in qualche modo mettevano sotto assedio sempre questo mondo. È successo che hanno fatto una campagna di vari libri di eserciti, sì. che hanno portato avanti questa storia che era bloccata da 20 anni ormai, anzi non di più, dall'inizio, dovrebbe avere 30 anni Warhammer Fantasy. È successo che credo. Hanno... come? 30 anni, credo 30 più anni. 20, sì. Hanno scelto di concludere la storia, cioè, brevemente, arriva l'apocalisse, Nagash, i personaggi non morti, tutte le razze vanno veramente in guerra l'una con l'altra, cataclisma tutto, e l'ultimo libro di questa serie di campagne dice che il mondo è completamente morto, cioè tutto quello che si conosceva della vecchia storia, di tutto, è stato completamente distrutto. E noi, tutti gli appassionati, diciamo, vabbè, dai, è come se muore l'uomo ragno, dai. Cioè, adesso tra un mese torna fuori, c'era uno scherzo, era il sogno di uno, eh? Ok, e quindi tutti si aspettavano cambiamenti, ma non così epocali. Invece la Game Workshop ha detto semplicemente che il mondo che conoscevamo prima è stato totalmente cambiato, e adesso il mondo del Warhammer Fantasy in realtà si chiama Age of Sigmar. Vuol dire che tutti i regolamenti complicati, vi ricordate i libri di regolamenti? Non so se qualcuno presenti il libro del regolamento di Warhammer, che è un wargame che varia sulle 200 pagine solo di regolamento, poi è pieno di eccezioni di tutte, esatto, le razze, le specificazioni, esatto, dei, esatto, poteri, le magie. Adesso dal punto di vista di storia il mondo è finito, e quindi c'è questi nuovi personaggi che sono una specie di incarnazione del dio più potente dei buoni, che in questo, sì, caso è Sigmar, di cui fa il nome, e dall'altra parte si ha il caos, cioè c'è l'opposto. In questo mondo devastato sono sopravvissuti per un rituale che è andato bene solo 8 mondi dei buoni, e sono tutti stati distrutti dal caos, quindi al contrario è i buoni che devono cercare di vincere, solo che le razze non esistono più. E quindi è completamente un riazzerare tutta la storia che in realtà a ogni singola persona che amava il fantasy ha completamente dimenticato. Questo per quanto riguarda la storia. Per quanto riguarda il regolamento, io leggo set introduttivo di Warhammer Age of Sigmar Euro, esatto, 100. Come? Euro 100, leggo così, preordine. Io non lo leggo, ma secondo me è proprio questa la motivazione della morte di un mondo. Vedo che allora... è un bel set con dentro 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ci saranno una quarantina, cinquantina di miniature. Vedo un regolo, cioè una righina di quelle che prendono le distanze, e 3, 5, 8, è una Meritrash, sono 11 dadi. Ma voi, non, come sempre, non si può paragonare il wargame con il gioco da tavolo. Perché il gioco da tavolo, dai, sì, sì, no, no, ma ho appena comprato Discworld. Guarda, la settimana scorsa ho preso Discworld e X-Wing, quindi, cioè, voglio dire. Ma Alan, ti faccio io una domanda, tu che hai seguito, su che cosa sono più arrabbiati i fan? Allora, adesso mi finisco di... questa è la parte della storia, è già un motivo di, come dire, di pena per tutti quelli che amavano la storia, cioè... Quello che invece è interessante su quanto riguarda le regole è che, se come prima accennavo, il regolamento di Warhammer Fantasy, solo il regolamento base per poter giocare a questo gioco, era di 200 pagine. Adesso il nuovo regolamento di questo nuovo ipotetico figlio di Warhammer Fantasy Battle, che si chiama Age of Sigmar, è solo di 4 pagine, scaricabili su internet gratuitamente. Cioè, muovi l'omino, spara, muovi l'omino, tira. Ecco. È interessante perché, visto che le razze non esistono più, mentre parli tutte le miniature sono 4 pagine, ok, vai. C'è anche tutte... l'italiano, cioè, che figo. Quattro, 1, 2, 3, 4. 4 pagine. Finisce con scudo mistico e dado arcano. Cioè, cacchio, me lo leggo, vai. Poi è bello perché, siccome gli eserciti che noi, le razze, alti elfi, scaven, non esistono più, in realtà le tue miniature sono di un mondo che non esiste più. Vabbè. Però, per dire, potete ancora giocare con le vostre miniature finché non le facciamo nuove. Intanto giocate con le vostre vecchie. Però adesso, al posto della basetta quadrata, si usa la basetta tonda, non vi preoccupate. Però, quindi immaginate come una persona come me, che aveva 527 miniature quadrate, tutte regolamente fuse, e quindi hanno, oltre al regolamento, hanno lasciato questi, diciamo, adattamenti alle miniature che tu già avevi, per poter giocare così. Non rompi un po' di, ce l'hai le regole nuove, 4 pagine, hai le vecchie miniature, ma li cambi la basetta, poi puoi giocare tranquillamente. Fantastico. Dai, non rompere, tanto, anche se non ti preoccupare, non ci preoccupiamo, se te, da quando hai avuto 30 anni, hai solo collezionato le nostre miniature, pagato capitali, è colorato, perdendo la vita sociale di ogni singolo momento adolescenziale, non ti preoccupare, dai, su, vai. E quindi questo, già il mio animo da modellista è ferito, sia nella storia che io amavo, sia nel regolamento. Non cogli quanto sono invece loro attenti alle tue esigenze, perché sanno che tu ti puoi essere un pelino annoiato nel corso degli ultimi 32 anni dall'uscita del gioco, e dici, vabbè, a sto punto ti do un mondo nuovo da esplorare. Esatto. Tutta una nuova occasione di spendere i tuoi soldini. Ma poi, scusami, Alan, propongo subito una cosa a Fabio. Tu fai finta di non sentire, insieme a tutti quelli che ci ascolteranno. Fabio, allora io ti propongo questa roba. Noi vendiamo lime per basette quadrate. Secondo me, che trasformano chiaramente in basette tonde, secondo me siamo già ricchi. No, le lime no, devi dare quei cosini, tipo quelli che tagliano le cose. Agli smussatori di angoli. Smussatori di angoli, esatto. Devi farlo così, andessi alla grande. Peccato che molti di quelli che pitturano coprono anche le basette. Un buon pitturatore fa anche le basette, fa con l'erbetta, con il muschio, con le cose che simula l'acqua oppure l'erba. Però questo invece è un altro, un'altra cosa che si aggiunge a questo già a me trauma esistenziale. È che adesso, se vai a spulciare il regolamento, troverai che i vari personaggi delle miniature che avevi prima, è comparso Federico, c'è una voce tipo dall'aldilà che fa mi stai sentendo? Cioè, prova a dirlo piano piano con questa voce un po' charmant, che viene poi, guarda, che adesso ti sento, perfetto, ci sei, eccoci qua. Ciao Federico. Ciao, stiamo parlando della nuovissima iniziativa. Bene, tutto a posto. Non se frega niente di come state, te lo diciamo dopo, ma dai, insomma, arrivi già tardi e ci tronchi anche a metà un argomento interessantissimo. Immagino come che argomenti di quale importanza. Quattro pagine di regolamento. Secondo te, cosa posso parlare io? Miniature. Ecco, bravissimo, bravo. Il ragazzo lo conosciamo. Allora, si parla di Age of Sigmar. Quello che è più inquietante col nuovo regolamento super semplificato, che in realtà sono anche d'accordo, perché oggettivamente Warhammer era molto complicato. Allora, la prima pagina ti dice solo tira i dadi per vedere gli elementi scenici. Va davanti, sì. Poi pagina 2. Sono solo 4 le pagine, cacchio, ma come fa a spiegarti le regole? Vai, vai avanti. E la cosa curiosa è che hanno quindi fatto tutte queste regole nuove per le vecchie miniature, ma che hanno inserito nelle, soprattutto nelle miniature dei personaggi, delle regole interessanti dal punto di vista del game design. Voi, non so, avete presente quanto può essere serioso un giocatore di Warhammer? Non so, tanto si prende abbastanza sul serio, tanto giochi sulle miniature. Direi che ce l'abbiamo presente. Se uno, esatto, si è letto un blocco di quanto? 200 pagine di manuale, dice, cioè, io so già 200 pagine di più di te, quindi, cioè, ecco, Pinocchio. Sono scappate fuori regole tipo, non so, un generale Carl Herbor dell'impero, che è famoso perché aveva questi enormi baffi, a un certo punto nelle sue abilità speciali si è scritto che se il giocatore che usa la miniatura ha i baffi più lunghi del suo avversario può ritirare dei dadi. Capito? Bellissimo. Il famoso reroll baffico è Warhammer, la nuova versione di Warhammer Age of Sigmar. Ma poi, praticamente è, voi ve lo ricordate quando Magic uscì fuori con le Anglued? Esatto, e le Unhinged? Sì, certo, ha voluto prendersi meno sul serio e hanno fatto le Anglued di Warhammer. Ma, esempio, c'è una miniatura che rappresenta un vampiro pazzo. Cioè, ma lo sai che parli... a pagina 2 è quasi finita, non hanno ancora cominciato a spiegare come gira. Cioè, sono commosso, c'è una pagina di regole effettive. Vai avanti, scusa, sto leggendo in diretta. Esempio, un'altra miniatura che rappresenta un vampiro impazzito. Se tu pagli la miniatura, tu hai un bonus che puoi ritirare i dadi. Se la miniatura ti risponde, hai un bonus aggiuntivo. Ce n'è un altro, e così è. Ce n'è un altro che devi ballare. Sono tutte queste regoline che è diventato, cioè, quello che posso dire è diventato Warhammer the party game. Esatto, bravissimo, è diventato un party game, Warhammer. Cioè, immagina il target, ti trovi, fino a 2 settimane fa, ti trovi un regolamento che era serissimo, di gente che ci teneva tanto, colorare miniature e tutto il resto, si è trovato ridotto a 4 pagine di regolamento, con, diciamo, più snello, non deve essere forse in un maniera... Punto, non, cioè, per adesso ti dirò, lo sto leggendo al volo, però non è che c'è proprio spiegato, c'è spiegato un po' porco, tutto. E soprattutto con queste regole... queste regole abbastanza da party game. Ultima cosa per concludere tutto, per farvi capire quanto è il mio shock, è che adesso, mentre prima la bellezza di questi giochi è che si sceglieva un punteggio, non so, 1000 punti, e tutti creavano l'allarmata in base a questi punti, in modo che veniva una partita equilibrata, adesso dicono, ma fai, guarda, non ci sono più i punti, non ci sono più nessuno, usa le miniature che hai, usa le miniature che ti piacciono, poi se vinci, in realtà stai attento a non superare l'altro di più di un terzo delle miniature, perché se lo fai perdi, basta, questa è l'unica limitazione. Adesso voi che siete esperti di giochi e game designer, cercate di analizzare da game designer questo cambio totalmente di target, ma non si parla di target da hardcore gamer a casual, ma da hardcore gamer a party game in una settimana. Certo. Beh, ma io posso parlare per quello che ho immediatamente capito, ovvero, non me ne volere Alan, voi siete vecchi. No, io non sono né contro né, sono totalmente aperto ad analisi interessanti, capito? Non sono contro, è solo lo shock. Un'analisi meramente economica, di target a cui lo vendi. Le persone che giocano a Warhammer Fantasy ad alti livelli sono persone con più di 30 anni, più di 35 anni a volte. Comunque, diciamo genericamente con più di 30 anni, loro se ne sono fatti 2 calcoli e hanno detto andando avanti così, chi comprerà il nostro gioco nei prossimi 10-15 anni? Sempre meno. E allora dobbiamo trovare un modo per affiliare persone che adesso hanno 15 anni e non hanno tempo e voglia di leggersi un regolamento complesso, e li freghiamo in questo modo. Questo è come la vedo io. Poi, su questo io sono d'accordissimo con te. Quello che non riesco è oggettivamente, se io già volevo passare a giocare a Warhammer 40.000, ma mi sono reso conto che adesso, col tempo, con l'età, è difficile ristudiarsi un regolamento da zero di quel genere. Pienamente d'accordo. Non capisco solo la scelta editoriale di cancellare a zero quello che c'era prima e non cercare di portare o con la storia o con le regole a una, no, a una semplificazione graduale. Sto dando un'occhiata in questo senso, cioè semplicemente ti propongono un prodotto diverso. Sì. Cioè, allora, Warhammer, cioè diciamo la Games Workshop, io l'ho sempre toccata un po' da lontano, no? Quello che ho visto, per esempio, io ho visto la realtà di Blood Bowl. Sì. Blood Bowl è un gioco che è stato creato da Games Workshop e poi è stato considerato come un figlio illegittimo, nel senso che l'hanno mollato poi lì ed è stato curato, nutrito, cresciuto dai fan che l'hanno fatto diventare il gioco che è adesso. Cioè, hanno creato un grosso regolamento molto complesso che ha fatto sì che potessero essere organizzate delle campagne, delle stagioni, delle modalità di crescita delle squadre, eccetera, che lo hanno reso un gioco a tutto tondo. Adesso, semplicemente, Games Workshop ti dice: c'è un nuovo gioco, cioè non lo chiamiamo semplicemente Age of Sigmar, ma lo chiamiamo, ci mettiamo sopra il timbro, Warhammer Age of Sigmar, ok? Perché comunque con il marchio Warhammer lo vendiamo molto di più, punto. Poi, siccome comunque le miniature le disegniamo con il nostro stile, tutto sommato possiamo scriverci anche Warhammer sopra. Però, detto questo, cioè, è chiaro che chi compra Warhammer Age of Sigmar sta comprando un gioco del tutto diverso dagli Warhammer precedenti, punto. Cioè, non ti fai confondere dal nome, è semplicemente un altro gioco. Non gli interessava più supportare il gioco vecchio, dice proviamo con questo nuovo. Ho finito di leggere le regole nel frattempo. Il concetto è questo, semplicemente loro ti dicono, comincia e tira un dado per sapere qual è la tua parte della mappa, punto. Scegli le armature, punto, le schiocchi lì, a caso una di loro fa il generale, punto. Poi ogni armatura probabilmente avrà una carta di riferimento che poi ti andrai a imparare. Fatto quello, comincia la battaglia. Tira il dado per vedere chi comincia ogni turno. Quindi puoi fare così a palmi, vedo che puoi fare anche due turni di fila, cioè sei il secondo di un turno e il primo di quello dopo. Sì, esatto. E dopodiché ogni turno si divide in sei comode fasi. Punto. La prima cosa lanci incantesimi e usi abilità speciali. La seconda cosa muovi tutte le tue unità per tipo, cioè ogni unità ha un certo spazio di movimento e le muovi, tra tra tra tra tra. Poi cominci, tiri i dadi per il combattimento alla distanza, tiri i dadi per il combattimento ravvicinato, c'è in mezzo la possibilità di farli un po' correre perdendo la possibilità di combattere, fase di shock, cioè vedi come hanno reagito alla battaglia, appunto è finito il turno. Cioè, se fai queste cose qui, praticamente molto, molto clicca e spara. Ma possiamo dare ad Alan la sua libra di carne. Io voglio essere un po' provocatore, un po' cattivo per certi versi. D'altra parte l'ho fatto io con te prima, quindi giustamente. No, ma non è vendetta. Una cosa che mi dà molto fastidio in questo modo di fare delle case editrici è che sostanzialmente loro spingono sempre più, soprattutto quelli anglosassoni, verso un mercato di cerebrolesi, almeno che loro addestrano ad essere cerebrolesi. E io faccio sempre il paragone del cinema americano, che sembra concepito solo per un pubblico mondiale di idioti. Non tutto, non sempre, ma nella maggior parte dei casi. Non che il pubblico mondiale sia fatto da idioti, ma loro lo addestrano ad essere tali. La colpa grave, a mio avviso, che io do alla Game Workshop in questo senso è che loro quasi sembra che vogliano addestrare le giovani leve a regolamenti di 4 pagine e fargli sembrare che stiano giocando a un gioco ben pensato e per persone intelligenti, cosa che chiaramente finirà per non essere così. Io fossi nei fan di Warhammer Fantasy sarei molto molto arrabbiato. Ma sai, semplicemente un concetto di quello che ti chiede il mercato, cioè in fin dei conti se tu vai su Kickstarter vedi che Kickstarter incassi da 500.000 a dollari, a 3 milioni di dollari per inventare un gioco dove delle regole non frega niente a nessuno, ma comprano giusto le miniature, dice la Games Workshop, perché io che ho inventato le miniature non devo fare la stessa cosa, tutto lì. Certo. Sono loro che vanno dietro al mercato, nel senso che poi tutto sommato io di gran parte dei titoli che sono usciti su Kickstarter che hanno incassato ballini, cioè proprio zillioni di dollari, alla fine non ho sentito uno che mi ha detto guarda che questo qua è un giocone, c'ha delle regole fenomenali. Mm-hmm. Sì, sì, certo. Ne lo pretendevano, l'hanno comprato per le miniature, lo stesso faranno qua. Sì, però c'è una ti interrompo perché c'è una differenza per me molto sostanziale tra le miniature di un Zombicide e le miniature di una scatola base di Warhammer. È che nel Zombicide le miniature sono già finite, già montate, e già ha un colore di base che le distingue. Qui, qui, ahimè, quando tu compri una scatola, non devi comprare la colla, devi comprare i colori, cioè hai la miniatura tua da giocare subito, non ce l'hai, devi, ahimè, avere delle qualità di modellismo che devi imparare apposta, cioè quindi il livello d'entrata, anche se il regolamento è due righe, ti devi non puoi solo togliere i spaggiare. Ti aggiungo una cosa, è vero che le quattro pagine, sono solo quattro pagine, però nello stesso tempo hanno messo già online i compendium. Sì. Che stavolta non te li fanno neanche comprare, guarda che gentile, cioè, ti stanno regalando le prime dosi, no? Quindi, e hanno messo qua online la bellezza di 16 compendium, ciascuno dei quali è, adesso ne sto leggendo uno per esempio, che è il primo che vedo, sono più di 20 Eastman. pagine, siamo già a 31 pagine di compendium nel quale parlano di tutte le singole miniature disponibili. Sì, mm-hmm. Con le quali parlano, per esempio qua c'è il Luminarch of Hish, che hanno missile weapons, ti dicono quant'è il range, quant'è l'attacco, più, cioè ti dicono praticamente tutte le caratteristiche, in modo tale che tu te le possa studiare. Tu hai 32 pagine moltiplicate per 2, 4, 8, 12, 16 libri, ecco te tue 500 pagine alle quali eri tanto affezionato. Sì, sì, sì, così non rompi le balle, dici. Esatto, cioè il concetto è quello che loro ti hanno fatto una versione base del gioco streamline. Ok, avevano già provato a quel punto, tanto per essere chiari, con Discourse a darti una versione streamline, ok? Probabilmente hanno visto che comunque la gente le miniature le voleva e allora hanno ragionato e dire facciamo qualcosa che sia semplificato come lo era Discourse e nello stesso tempo ci lasciamo le miniature perché la gente le vuole. Sì, sì, sì. Poi già che c'erano potevano anche venderle anche colorate, versione colorata, a quel punto le facevi pagare invece che 100, 300... ma devono vendere i colori e le colle. Sì, c'è anche ragione, però vabbè. Ma l'altra cosa, quello che mi sorprende è il... come dire, faccio un esempio con il mondo dei fumetti, della Marvel, diciamo. Diciamo che a un certo punto si sono accorti che l'Uomo Ragno era, ahimè, troppo vecchio, perché l'Uomo Ragno era una persona che è nata negli anni 80. E quindi, secondo la storia, era troppo... Ti devo interrompere solo un secondo, perché non riesco a trattenermi. Sto leggendo sul loro sito. Leggo, all'interno troverai un'incredibile quantità di meraviglie. 47 incredibili miniature Citadel. Hai capito bene, 47, con punto esclamativo. Va bene, vai avanti, vai. Cioè, questo per capire... E sono entrati nel tema di cosa, di Kickstarter, hai capito? Cioè, 100 euro, ti scriveranno, cioè, best value, hai capito? Cioè, 47 miniature, 100 euro. Cioè, solo 2 euro a miniatura. Vai avanti, scusa. Io ti consiglio solo di... adesso vai a scaricare Tomb Kings e vai a leggere le regole di Setra, ok? Vai intanto, mentre io continuo. Ok. Allora, dicevamo, l'Uomo Ragno si è reso conto a un certo punto che l'Uomo Ragno era troppo vecchio e le nuove generazioni non leggevano più l'Uomo Ragno perché aveva un bagaglio di storia talmente tanto alto che diventava impossibile incominciare a mettersi al passo. Quindi cosa hanno fatto? Hanno creato una versione alternativa che si chiama Uomo Ragno Unlimited, Ultimate. Identico al vecchio, in salsa un po' svecchiata. Sì, è svecchiato, però è un ragazzino di 16 anni, meno. Però non ha rinnegato tutto quello che è passato. Era un altro prodotto, ma comunque se io amo l'Uomo Ragno voglio leggere qualcosa l'Uomo Ragno. Cioè l'Uomo Ragno è nato così. Questa cosa di aver cancellato 30 anni di storia e aver trasformato una cosa totalmente nuova mi sorprende tanto. Immagino la stessa cosa, come a un certo punto vogliono rinnovare Tex, a un certo punto uccidono tutti i Pard. Tex in realtà è una persona, un fuorilegge senza un occhio, dici vabbè veramente, allora cioè, cosa? E allora compro un altro fumetto, perché il problema è quello. Solo il Michael M sopra, cioè fine. No, è che mi sorprende, cioè, soprattutto in un mondo dove la Game Workshop ha una concorrenza spietata e quello che si poteva tenere, diciamo, la sua trincea era la storia, ok, la storia che si porta avanti con gli anni, buttando via questa cosa qua si ritrova a combattere con armi pari, è questo che mi sorprende. Magari, visto che soldi ci sono, io comunque ho scaricato Tomb Kings. Esatto. Cosa ci faccio adesso? Me l'hai detto leggi solo per poter parlare liberamente. No. Ok, leggi abilità di comando. Abilità, sì. Ok, egli disse guerra, il mondo tremò. Leggilo. Su Setra. Setra the Imperishable. Esatto. Cosa ha fatto? Sì. Abilità. Crown of Nehekara. Se Setra Imperishable è il tuo generale, i Mami Heroes della tua armata che si trovano entro 18 pollici da esso. Bastardissimi, sempre un'unità di misura. Vabbè. Durante la fase degli eroi possono usare le abilità di comando anche se non sono il tuo generale. Non è quello. Ah, eccolo là, lo vedo. Egli disse guerra, il mondo tremò. Se okay. Setra the Imperishable usa questa abilità, devi protendere la mano e con un decisissimo tono di comando devi dire guerra. Ma così fa, che cacchio. Va bene. Se lo fai fino alla tua successiva fase degli eroi, puoi aggiungere uno a tutti i tiri per colpire effettuati dall'unità di death della tua armata. Cioè, ma stiamo scherzando. Aspetta, poi l'ultima riga che te la leggo io dice: tuttavia, se Setra è il tuo generale, non devi mai inginocchiarti per nessuna ragione durante la battaglia. Se lo fai anche solo una volta, perdi immediatamente la partita. Setra non si inginocchia. Ma ecco, cacchio, questo giocato a Voodoo hanno giocato. Ma esatto, mi rendete conto. Voodoo incontra cose, incontra Warhammer. Ma se gioco con la se prendo l'omino quell'altro, devo giocare con la testa appoggiata sul tavolo? Penso. Se alzo il tavolo mi muoio un omino. Ma si è capito, quello che volevo fare analizzare voi, cioè più che essere appassionati di gioco, è il salto enorme che ha fatto da una mentalità all'altra. Cioè, va bene che sono rimasti 10 giocatori in tutto il mondo che giocano ancora al vecchio gioco, sono pienamente d'accordo, ma svecchiarlo a tal punto che è diventato un gioco Un party game, dici te. Ecco perché mi hai fatto vedere questa roba qua, ho capito, va bene. Ecco, ma scusami, per un party game che costa 100 euro la scatola base, capito? Ma ci sono le miniature, cioè te insisti, cioè guarda che la gente sta comprando un quintale di rumenta. Allora facciamo un crowdfunding Voodoo con le miniature, adesso glielo chiedo a Valtriani. Dovresti chiedere proprio a Valtriani di fare la versione di Voodoo con miniature. Esatto. No, volevo solo... illustrarvi questa, alla fine è una multinazionale che crea giochi, quindi interessa anche, penso, ai nostri... È un gioco da tavolo, perché si fa sul tavolo, quindi... Esatto. Poi ci dicono sempre che non siamo abbastanza American, quindi... Invece sta puntata qua abbiamo fatto mezza puntata perdendo tempo a parlare con il nostro Zizi, scherzo. Di sciocchezze, diciamo. Di sciocchezze, cioè i titoli che si è inventato lui, quindi... Beh, roba per pochi. E poi parliamo di questa roba per tanti. Oh, del futuro! Però... Mentre di Zizi abbiamo parlato bene, dicendo ma sì, interessante, Ganza sta meccanica, eccetera, qua non facciamo altro che sparare sopra della spazzatura questi poveracci che invece creano delle miniature strepitosamente belle e che poi risolvono tutto tirando i dadi, ecco, cioè, vogliamo, voglio dire, scusa, noi siamo tutti American. E che vorrei capire meglio sto fatto, è quello, volevo chiedere al vostro punto di vista. Il mio punto di vista più o meno si aggancia a quello che ho detto prima, secondo me è controproducente, al meglio, dal loro punto di vista gli porterà tanti bei dollaroni, sterlinoni, eccetera, e saranno contenti per questa nuova affiliazione di qualche decina, centinaia di migliaia di persone che gli compreranno il gioco. Setra l'imperituro, l'omino che ti fa saltare di gioia, 31 euro costa. per capirci. Il problema, che forse farò l'idealista in questo momento, il problema è che loro, abbassando il livello di specializzazione nel leggere le regole e l'interesse che il giocatore ha per le regole, creeranno, per l'appunto, come è successo nel cinema, ritorno a quel paragone, un pubblico di persone che non capirà nulla o quasi della qualità dei giochi. E quindi dopo un po' potranno vendergli anche altre case editrici giochi la cui asticella è sempre più in basso, potrà essere superata facilmente da tutti e i giochi ne perderanno di qualità, come in generale ha fatto Kickstarter per altri punti di vista e si sta facendo in generale, ma anche più lentamente, per i giochi da tavolo di molte case editrici più blasonate che dicono vabbè, ma noi facciamo giochini per famiglie, abbassiamo il livello ai giochi difficili, perché questo è così. Questo è il ranting personale dello zio. No, ne sono molto convinto. Un'analisi. Sì, sì. E quindi questo è una campagnona fatta da una multinazionale che dice: noi giochiamo questa carta e andiamo a battere su quel punto perché la gente non ha voglia di sbattersi. Ma io ricordo sempre una cosa che secondo me è verissima. Io non sono d'accordo con chi dice si insegue il mercato e quindi bisogna adeguarsi perché il mercato è fatto così, perché non è vero, no, non è del tutto vero. Le case editrici creano anche loro il mercato grazie alle loro tendenze, quindi se avessero voglia di creare qualcosa di più intelligente e più critico, il mercato verrebbe influenzato da quella loro scelta strategica. Qui si è scelto di andare nell'altra direzione, ormai da un po' di anni lo sappiamo, e quindi non è il mercato, è una scelta che magari al 60, 70, 80% insegue il presunto mercato, parolona che non significa granché secondo me, e invece c'è un 20-30% di discrezionalità che non è utilizzato perché potrebbe. Ma guarda come sono belle queste miniature. comprale. Ce ne sono quelle, ci sono quelle dorate e blu con tutti i fulmini. Che carini, ma io voglio fare gli elfi alti. E no, sono morti gli elfi alti, scordatelo. Porca puttana. No, adesso ci sono sti cosi. Ci sono praticamente i buoni e i cattivi, dai, è andata a menare più di tanto. Sì. Per la cerebrolosità. E soprattutto c'è quel ciccione là, 42 euro. Costa. Eccolo lì. La mia poi singola costa un ballino, veramente, costa una cifra strabiliante. Ecco perché ti ha detto che cioè solo 100 euro per ben 40 miniature. Capisci il punto di vista come è diverso quando sei abituato a spendere 31 euro per una miniatura di 28 mm. Non colorata, è da montare. Non colorata, è da montare. Però. Poi, sì, poi beh, perché poi effettivamente c'è anche in giro gente che fa le pitturazioni quelle veloci. Sì. E quindi praticamente c'è chi non ha mai pitturato niente e ha solo speso capitali per comprarsi un esercito pitturato. Esatto, oppure chi ha speso la propria infanzia a colorarli. E qui secondo me c'entri tu, caro Ale. C'è qualcuno di noi che l'ha speso, ho capito. Va bene. No, vabbè, però io più che arrabbiato sono stupefatto, perché come se a un certo punto dicono... Non l'avevamo, no. È come se a un certo punto dicono, prendi gioco della PlayStation, non funzionano più. Vabbè, proprio per nel mondo della tecnologia siamo abituati, ok? E che negli altri mondi più analogici è più difficile. Sto guardando il trailer, cioè stanno facendo queste pitturate in modo legale. Praticamente cioè, nessuno di noi riuscirà mai a pitturare così, ovvio. Loro ti fanno vedere quello che l'omino, il più ganzo dei miniaturisti ha fatto. Tu poi le compri, le tue non so perché sembrano Babbo Natale. E i sette nani, invece questo sembrano dei mostri cattivissimi. Va bene. Che dicono, ti prego uccidimi, non posso vivere colorato così. Blood River, mamma mia, okay. Come faccio a non comprarlo? E basta, per questo argomento diciamo contemplato in tutte le sue forme. Adesso, poveretto, passiamo argomento e cambiamo, che sennò Federico sì, mio no, dirà. Adesso chiudiamo la puntata, così finiamo di tediare in questa giornata. Possiamo dire solo due minuti che c'è stata Idea G Costa Est, c'eravamo anche io, Alan e Federico. Possiamo farvi un'altra puntata. Il preview, stesso bat canale. E allora vi parleremo del successo rampante di Idea G Costa Est in un'altra puntata. Via. Va bene, dai, un saluto a tutti. Alan.